E adesso siamo in collegamento con Simone Perinelli per Eretico il 30 al Teatro Vascello qui a Roma. E intanto Simone, ben ritrovato. Oi, grazie, ciao e grazie, ciao. Fra una settimana, lunedì 30 ottobre, avevamo visto una specie di una sorta di studio qualche mese fa. Intanto raccontiamo un po' la genesi di questo lavoro, Simone. Allora, Eretico, con il quale stiamo debuttando proprio stasera a Potenza per il Festival delle 100 Scale, e è uno spettacolo che vede coinvolti diversi attori oltre me in scena, quindi già una differenza rispetto a, diciamo, le produzioni iniziali delle Vie del Ful, dove c'erano dei monologhi. È, diciamo, un passo in più rispetto allo spettacolo precedente, che mi sa che tu, Federico, hai visto al Vascello. Parlo di Made in China, lo spettacolo su Van Gogh. Sì. E Eretico è un progetto molto particolare, è uno spettacolo sempre scritto da me, che parla della religione, uno spettacolo sulla barra contro la religione. Cerchiamo di mettere in scena tutte le contraddizioni che viviamo di giorno in giorno, insomma quasi da sempre, e l'eterna lotta, malgrado ce la, insomma, ci dicano che non sia così, però l'eterna lotta tra scienza e fede. E uno spettacolo che parla di Giordano Bruno, quindi del periodo nero del cristianesimo, l'inquisizione, diciamo, uno spettacolo in cui cerchiamo di declinare l'argomento fede e religione in tutte le sue sfaccettature e in tutto il suo mostrarsi nella nostra quotidianità, di questa religione che in realtà ci ha allontanato, a nostro avviso, dal sacro invece che avvicinarci, e si è ridotta oggi a come dice Umberto Galimberti, ad un'agenzia etica, cioè di cosa si può fare e cosa non si può fare. Ma non ha, a nostro avviso, nulla a che vedere col sacro, non parla quella lingua lì, assolutamente no. Senti, rispetto a quella volta al Centrale Preneste, in cui c'erano una serie di quadri interpretati dai vari attori e attrici in scena, come si struttura ora il lavoro? Allora, il lavoro ha una struttura presa un po' in prestito dai nostri amati concept album, quindi è una struttura a capitoli in particolare sono 7 capitoli che si susseguono uno dopo l'altro con dei titoli che noi sviluppiamo in scena uno dopo l'altro, appunto. E rispetto lo chiamo esperimento, quello che fu al Centrale Prenezza, insomma, siamo proprio su tutt'altra, da un'altra parte, nel senso che lì era veramente un esperimento, c'erano alcuni pezzi di testo della drammaturgia scritti, altri no, quindi era più avevamo fatto in quell'occasione una chiamata a diversi artisti, amici che avevano lavorato già sul tema del sacro, ma è tutta un'altra cosa. Questo che vedremo, insomma, ha una struttura completamente diversa, insomma, alla sua storia, al suo respiro, è proprio un'altra cosa. Senti, quella di oggi è una prima? Quella di oggi è una, sì, la prima nazionale qui a Potenza, e dove andremo in scena alle 20:30, e dopodiché ci sarà, appunto, l'appuntamento romano il 30 ottobre, data unica, sì, per teatri di vetro, e poi 6, 7, 8 novembre al Teatro India, per chi, diciamo, non riesce a venire il 30. È importante, insomma, sapere che poi proseguiamo, insomma, per un totale di 4 date, che non sono tantissime, però abbiamo possibilità, appunto, di mostrare il lavoro. questo. Sì. Senti Simone, tutti i riferimenti web per saperne di più? Guarda, tutti i riferimenti web sul sito di Triangolo Scaleno, Teatri di Vetro, quindi per quanto riguarda il festival, altrimenti sì, sul sì. nostro sito www.levievedelful.com o Teatro di Roma, www.teatrodiroma.it, nella programmazione India, per vedere insomma tutto il cast, chi ha collaborato con noi, altrimenti ci sono una serie, una sfilza di commenti di persone cristiane cattoliche che seguono ad alcune recensioni dove ci offendono, senza aver visto lo spettacolo, insomma ci stanno è un classico. Arrivano continuamente questi commenti, queste anche un po' offensivi su come ci siamo permessi, insomma, ma questo addirittura dalla sinossi dello spettacolo o dalla recensione, no? Sì. Senza aver visto il lavoro. È un classico, in realtà ha tutta una. Però ovviamente quando ti permetti di toccare determinati argomenti, spettacolo insomma abbastanza ofticante sotto alcuni aspetti. Ovviamente sì, un po' ce l'aspettavamo, non così, perché così proprio in maniera gratuita. Insulti diciamo, non dico minacce, però insomma quasi qualcuno c'è quasi arrivato e vabbè, insomma fa parte del gioco, Federico, che dire. Certo. Bene, bene, motivo in più per vederlo, schieriamo. Insomma sì, noi ci schieriamo, cioè nel senso è chiaro che è il nostro punto di vista, no? Lo spettacolo certo. nasce dall'urgenza appunto di dichiarare un qualcosa. L'inizio della presentazione del progetto è 7 capitoli per prepararsi al giorno in cui ogni religione si rivelerà per ciò che realmente è, 2: un insulto all'intelletto umano. Ovviamente da qui insomma chi è d'accordo, chi non è d'accordo, chi dice che siamo superficiali, perché poi c'è sempre questo confine, insomma non è semplice fare uno spettacolo sulla religione. Sì. Forse dovrebbe essere un lavoro che dura 4 ore, no? Per approfondire tutto. Noi in 1 ora e mezza cerchiamo di andare a segno, no? Rispetto ai concetti che ci siamo prefissati, però sì. non è semplice e speriamo che diciamo che alla fine sia un esperimento riuscito. Bene. Uccidono nel foyer del teatro. Simone, allora ci si vede a teatro, un abbraccio e in bocca al lupo. Sì, grazie a voi, grazie a te Fede, e ci vediamo presto, appunto. Faccio questo appello per chi insomma volesse sostenerci in questo percorso un po' particolare rispetto agli altri, anche sui temi, quindi faccio appello a chi la pensa come noi, insomma, che venga a sostenerci a Roma il 30 ottobre al Vascello, il 6, 7, 8 novembre all'India, insomma, ecco. Bene, ciao Simone. Ciao, grazie. Un abbraccio, ciao.